Victoria. Malte e Lars russavano uno accanto all'altro sul divano. I loro corpaccioni puzzavano di alcol e di sudore. Victoria prese il cellulare del marito e scese in cantina. Entrò nel ripostiglio dedicato alla distillazione di acquavite casalinga, scelse una bottiglia e si sedette sul divano della taverna davanti alla televisione spenta. Sul mobiletto sottostante era allineata in bella mostra la collezione di porno di Malte. Victoria li aveva visti tutti più volte. Era così che aveva imparato lo svedese. Malte la teneva isolata. Le aveva dato un telefono suo, con una carta ricaricabile, ma le 100 corone di credito che le caricava ogni mese non bastavano per chiamare in Russia e non aveva una connessione internet. L'unico modo per restare in contatto con sua madre era usare quello di Malte come router. I primi mesi si era immaginata che la vita in Svezia sarebbe stata sopportabile, non come gli anni con Yuri, ma tollerabile. Malte all'inizio era gentile, noioso ma gentile. Le comprava mazzi di fiori semiavvizziti, le faceva i complimenti per i piatti che preparava, la chiamava la mia mogliettina. Certo, andare a letto con lui, averlo vicino, sentirsi addosso le sue mani goffe non era una passeggiata, ma almeno la trattava come un essere umano. Victoria gli era grata per averla portata via dalla Russia e dal destino che l'aspettava se fosse rimasta là. Ma dopo 6 mesi le cose avevano iniziato a cambiare. Era diventato cattivo, aveva smesso di lavarsi e puzzava sempre di più. Invece di fare l'amore come prima, gridava «Pompino!» per poi sedersi sul divano con i pantaloni abbassati. E lei obbediva, prendendogli in bocca quel ridicolo affaretto. Aveva paura di lui. Anche se non era mai stato fisicamente violento, Malte avrebbe potuto rendere la sua vita molto peggiore di quello che era. Victoria era nelle sue mani. La fattoria era praticamente una prigione. Se almeno avesse avuto un'amica, qualcuno con cui parlare e che la trattasse da essere umano e non come una bambola gonfiabile, capace anche di cucinare e tenere pulita la casa. Beve un sorso del liquido trasparente, buttandolo giù con una smorfia. Sua madre non aveva risposto all'ultima mail. Victoria le aveva tenuto nascosta la verità. Le raccontava che stava bene, che aveva un sacco di amiche ed era contenta. Scriveva che Malte la viziava, che era buono e gentile, proprio come aveva detto lei, che lavorava come direttore di una grossa azienda informatica. Le descriveva nei dettagli le belle cene, le vacanze nel Mediterraneo, gli amici importanti, il progetto di avere un bambino. La ringraziava di essere stata così saggia e previdente da consigliarle di sposare uno svedese.